Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24, buongiorno, cerchiamo di sgombrare la testa e anche un po' il cuore dalle notizie tragiche che continuano ad arrivare dall'Abruzzo e da quel misto di paura, di speranza, di attivismo solidale che naturalmente è al centro dell'interesse di ciascuno di noi. Cerchiamo di restaurare un piccolo spazio di normalità informativa, e quindi parliamo di tutt'altro, parliamo di cose che riguardano il destino del mondo, il destino dell'Europa e anche il destino dell'Italia, ma che nascono a Washington, nascono là dove fa le sue prime prove la nuova amministrazione americana. Obama è tornato nottetempo nella capitale americana dopo un viaggio lungo, il primo importante dal punto di vista diplomatico, politico e strategico del suo primo mandato, ed è tornato dopo l'Europa, il doppio appuntamento, quello del G20 per la crisi dell'economia internazionale, quello del vertice interatlantico sull'Afghanistan, sulla sicurezza, sulla NATO, eccetera, eccetera, e dopo il viaggio in Turchia. L'impressione che abbia riscosso una grandissima simpatia, che abbia veramente affascinato gli europei, li ha anche riuniti nelle piazze, ha comiziato davanti al Palazzo Radcani a Praga, ha parlato in un town hall meeting, cioè quelle formule, diciamo, da talk show, da campagna elettorale, ma insomma ha fatto tante cose curiose, interessanti, nuove. Insomma, puntare contro Obama direi non è uno sport che nessuno ha voglia, diciamo, di giocare, non è una scommessa che nessuno ha voglia di fare, sarebbe una cosa ridicola applicare criteri di faziosità politica a una figura così centrale, così cruciale per i problemi della pace e della guerra. Però l'impressione che Obama parli bene, razzoli anche bene per quello che riguarda, diciamo, i suoi doveri di presidente, ma poi alla fine stringe poco nelle mani, gli resta un pugno di mosche, gli alleati europei non gli danno i soldati che voleva per l'Afghanistan, per combattere contro i talebani, con le truppe vere che lì combattono, che sono gli americani e gli inglesi, gli danno un po' di croce rossine, insomma, piccole, frammentarie aiuti. D'altra parte impegni seri sull'Iran, eccetera, gli riesce difficile ottenerli. Il viaggio in Turchia è stato fatto all'ombra di due problemi: il no di Sarkozy e il no un po' più blando della Merkel all'ingresso della Turchia in Europa, e le proposte di mediazione del governo italiano, di altri governi europei, e la questione del genocidio armeno che gli era vietato menzionare, citare nei suoi discorsi. Così Obama ha parlato del basket, del fatto che anche lui ha avuto parenti e frequentazioni, ha vissuto in paesi musulmani, che anche lui si chiama Hussein, il suo secondo nome, Barack Hussein Obama, e diciamo ha continuato a esercitare questo grande sport retorico di affascinare, piacere, però in mano gli è rimasto poco. Di queste cose parliamo con Antonio Padellaro, che ha appena depositato nelle librerie un suo libro, Io gioco pulito, che è un gran libro sulle passioni politiche roventi di questi anni, con Giancarlo Bosetti, direttore della rivista Reset e autore di un fascicolo il cui titolo è La religione del laico Obama. Reset studia molto il fenomeno Obama e lo studia in profondo. Quindi Giancarlo Bosetti e Vittorio Emanuele Parsi, professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, editorialista della Stampa, competente, esperto di questioni di geopolitica. Bene, direi che possiamo. No, non c'è Deborah Rosciani, vero? No, dobbiamo andare avanti senza nessun tipo di interruzione. Vedete com'è la strada dell'asino. L'asino sono io, naturalmente, in questo caso uno. Bene, io comincerei con Vittorio Emanuele Parsi. È giusto il giudizio che ho cercato di dare, anche sulla base della lettura di suoi interventi, di sue opinioni, di suoi editoriali? È giusta questa idea che purtroppo Obama è uno che affascina e che ha una splendida retorica, ma che stringe poco nelle mani come risultati politici? Beh, al momento l'esito di questo viaggio è quello che lei rendeva prima. Va detto, a onor del vero, che anche questo è molto frutto della inettitudine europea, cioè, nel senso, alla fine Obama non è che può trasformare gli europei in quello che gli europei non vogliono, non sanno, non riescono a essere. E dall'altra parte va anche riconosciuto che è un viaggio di ricognizione. Quando lei citava appunto le tappe, in fondo Obama ha visto gli europei come gli attori economici nazionali importanti al G20, li ha incontrati poi come alleati della NATO a Strasburgo, li ha incontrati come Unione Europea a Praga, li ha incontrati come europei controversi ad Ankara. Per cui tutto questo, diciamo così, è un po' una ricognizione del problema fino a questo punto. È chiaro che bisogna capire se questa strategia, che se non altro riconsegna agli Stati Uniti, al Presidente degli Stati Uniti, quell'incredibile strumento che l'America ha in maniera preponderante rispetto a tutte le grandi potenze del passato, che è il cosiddetto soft power, la capacità di essere seguiti in quanto punto di riferimento anche ideale, bisogna vedere se, a parte questo, il Presidente riuscirà a portare a casa risultati concreti su molti dossier importanti. Al momento così non è stato e va riconosciuto con molta franchezza. Sarà interessante vedere che cosa fa adesso Obama una volta che è tornato a Washington. È stata brutta anche la storia della Corea del Nord, perché lui ha giocato delle sue carte con un grande rilancio, ha detto cerchiamo di puntare verso un mondo denuclearizzato addirittura, e gli è successo che è partito il razzo. Ah sì, e questo purtroppo, se consideriamo che la Corea del Nord era stata raccontata, se si ricorda, come un esempio di storia di successo nel contenimento della proliferazione nucleare appena un paio d'anni fa, grosso modo, quando sembrava che ci fosse stato un accordo che i coreani avrebbero rispettato, diciamo così, di aiuti in cambio di rinuncia al nucleare. E tutto sommato in Corea del Nord cinesi, russi non hanno un interesse diverso da quello americano, soprattutto i cinesi, evitare che il nord-est asiatico la situazione si complichi, perché la Cina sa bene che una Corea nucleare rischia di rimettere in discussione, diciamo così, il pacifismo attivo del Giappone. Eppure neanche lì gli hanno regalato niente. Immaginiamoci su una questione come l'Iran, dove interessi russi, cinesi persino, e in qualche misura europei, o perlomeno la percezione degli europei, sono diversi. Lì qualcuno farà free riding e molti lavoreranno contro, quindi è un brutto segnale quello nordcoreano. Padellaro, com'è percepito Obama nel grande pubblico? Padellaro tra l'altro sta cercando di mettere in piedi, non rivela un segreto, è una cosa pubblica, un quotidiano che si chiamerebbe Il Fatto, come la grande rubrica di Enzo Biagi, la grande popolarissima rubrica di Enzo Biagi. Padellaro è stato direttore dell'Unità, un giornale d'opinione, non più neanche veramente di partito, che ha costruito insieme, è stato costruito da un grande pubblico politico italiano, il pubblico militante, diciamo, che è un pubblico che ormai è forse l'ultima anima, l'ultima identità vera e propria della sinistra. Allora io chiedo, Obama è amato ed è ancora considerato un simbolo di pacifismo, di svolta, diciamo, dalle politiche imperiali dell'America di Bush dopo l'11 settembre, oppure è già una delusione? Obama non solo è amato, ma rappresenta una svolta straordinaria rispetto alla percezione degli Stati Uniti, che la gente ha, che il popolo di sinistra degli Stati Uniti. Insomma, è stato scritto che un presidente americano giri per le capitali europee senza che venga bruciata una bandiera americana è un successo straordinario, soprattutto per chi ha amato e ama l'America ed era rattristato del vedere l'America spesso strumentalmente attaccata e vilipesa perché era rappresentata da un presidente, stiamo parlando di George W. Bush, che non era amato assolutamente. Allora io trovo che il successo numero uno di Obama, Parsi prima parlava di soft power e di riferimento ideale degli Stati Uniti, sia appunto questo: se lui riesce a restituire all'America questo ruolo di riferimento ideale per tutti coloro che amano la democrazia, che amano i grandi paesi vitali, pieni di energia, magari pieni di contraddizioni, pieni di problemi, ricordiamo la bolla speculativa, la bolla finanziaria che ha rischiato e forse ancora rischia di mandare a gambe all'aria l'economia globale, mondiale. Beh, questo è un successo straordinario. Vedere Obama applaudito mi è dispiaciuto un po' da giornalista, a proposito dei giornalisti, io penso che i giornalisti non debbano mai applaudire, debbano fare il loro mestiere, ma accolto come è stato accolto e anche con questa sua capacità che ha di magnetica, c'è poco da fare, è un signore che sa parlare bene e che dice... Nel suo libro, a pagina 173, lei dice che Obama ha questa caratteristica proprio di sapere... diciamo, ispirare, parla di integrità, di onestà, di rispetto, di generosità, di audacia, sto citando tra virgolette. Tocca il cuore prima di convincere la parte razionale del suo pubblico. Esattamente. E questo, secondo lei, è una cosa di cui l'Occidente ha bisogno. Ha bisogno, e anche l'America ha bisogno per ristabilire quel ruolo che le appartiene, il ruolo ideale che le appartiene. Eccoci qui, 800 24 00 24. Giancarlo Bosetti, stiamo parlando di Obama e dei risultati della sua visita in Europa. Che idea si è fatto lei? Io non sono convinto del quadro introduttivo che era concentrato soltanto sulle relazioni con i governi, perché l'elemento soggettivo è di enorme importanza in questa fase, l'elemento soggettivo, e con questo voglio dire il rapporto con le opinioni pubbliche, è di enorme importanza ed era una priorità di questo viaggio, una riconversione dell'immagine dell'America e del rapporto psicologico anche degli europei con gli Stati Uniti, che comincia a parlare anche di una riconversione, di un cambiamento del clima, del rapporto soggettivo, se vogliamo ancora dire così, con le opinioni del mondo arabo e del mondo musulmano. Questo non sono fattori solo psicologici imponderabili, hanno un enorme peso poi sull'agenda politica, erano qui una priorità perché stiamo in una fase di riconversione dell'immagine e della sostanza del potere americano sugli europei. Non dimentichiamo che nel 2003 con l'inizio della guerra in Iraq si è consumato uno dei momenti di maggiore rottura fra gli Stati Uniti, l'immagine la rottura magari la dobbiamo anticipare come data. La rottura forse è l'11 settembre o addirittura i bombardamenti delle ambasciate. No, niente affatto, perché con l'11 settembre gli europei si sentirono molto vicini agli Stati Uniti. Fu poi anche nella fase della prima fase della relazione con la guerra in Afghanistan, gli europei si sentirono ancora vicini. Fu poi proprio con il 2003, fu quello il momento in cui si consumò una rottura gravissima tra le opinioni europee, francese, spagnola, italiana, inglese. Ah sì, io dicevo la rottura tra l'Occidente e l'Islam, sì, d'accordo. No, dobbiamo ricordare, io ricordo allora un convegno organizzato non da Rifondazione Comunista, ma dall'ambasciata americana, in cui si affrontava il tema dei rapporti con le opinioni europee, il quadro era veramente allarmante. Quindi questo lavorio negativo psicologico sulle opinioni pubbliche è durato molto a lungo, e quindi adesso Obama aveva il problema di una riconversione. Per questo ha molto insistito sulla fase degli errori, sul fatto che il suo governo è come una petroliera che deve fare una lunga conversione, una lunga marcia di conversione di rotta, che non può essere improvvisata come la potrebbe fare un gommone o un barchino, insomma, quindi è molto difficile. E questo cambiamento, questa svolta di tipo psicologico parla agli europei, ma parla anche forse ancora di più al mondo musulmano, perché il discorso di Istanbul è molto importante per questo. Non solo perché contiene dei riferimenti alla cultura del pluralismo, che voglio dire appartiene anche alla cultura conservatrice americana, non è un dato americano, non è solo dei progressisti, no? Parla al mondo arabo quando dice che l'Islam ha fatto migliore anche il mio paese. rivolge un messaggio potente di distensione rivolto a tutto il mondo islamico, di cui c'è assolutamente bisogno, perché noi dobbiamo capire che nel mondo musulmano tutto quanto, quello arabo e quello non arabo. Ma Bosetti, lei pensa davvero, lo chiedo, non può sembrare che ci sia una sfumatura di ironia o di sarcasmo, ma non c'è. No. Lei pensa davvero che per come sono messe le cose nel mondo, diciamo, per il peso specifico che hanno poi gli interessi, i risentimenti storici, secolari, i rapporti culturali, etnici, politici tra le civiltà, lei pensa veramente che una offensiva di persuasione sorridente attraverso il videotape mandato a Ahmadinejad, il discorso a Istanbul dicendo mi chiamo anche io Hussein e ci sono due bravi giocatori turchi nelle squadre di basket americane. Certo, l'offensiva del sorriso può sostituire una calibratura chiara invece dei rapporti di forza? Sicuramente sì, perché quando Ahmadinejad spara le sue follie negazioniste, anti-israeliane, antisemitiche in un discorso all'ONU, o quando lo fa in un'altra occasione, quello che preoccupa molto naturalmente è che sia un capo di governo e che pensi quelle cose di uno Stato così importante, ma è che lo faccia per incrementare i propri consensi presso le opinioni nel mondo musulmano. E questo è possibile, questo giocare al peggio è possibile sulla base di una diffusione così forte, di sentimenti così forti di odio nei confronti degli Stati Uniti, che in questi anni sono stati. Quindi questo lavoro che di tipo soggettivo è fondamentale, è anche indispensabile per preparare le condizioni di una soluzione del più grave di tutti i conflitti del Medio Oriente, che poi sappiamo è quello israeliano-palestinese, che per trovare una soluzione ha bisogno di ridurre le dosi di odio che sono di uno spessore incalcolabile in tutto il mondo arabo, ecco. Dal Marocco fino a... A Parsi e a Padellaro vorrei chiedere una cosa, per sanare, ce la fa Obama a sanare, diciamo a cucire, a suturare la ferita che è aperta in America tra la continuità politica statale, insomma la difesa di un interesse americano ad esercitare un peso e un'influenza in Medio Oriente e dunque nel mondo, e appunto la retorica politica antiguerra? Perché per esempio Obama, quando va dai Marines a Camp Lejeune, dice in Iraq abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo destituito un despota e insomma abbiamo ottenuto dei risultati. Quando va, adesso è stato a sorpresa in visita alle truppe in Iraq, fa più o meno gli stessi discorsi, basta leggerseli, oggi sono riportati tra virgolette su tutti i quotidiani e sono stati, insomma, fa dei discorsi da americano che segna una continuità politica con gli atti principali strategici dell'amministrazione Bush, che erano, voi sapete bene, adesso si può avere un'opinione favorevole o contraria, ma insomma no, non è stata, l'Iraq non è stato occupato per pompare petrolio, l'Iraq è stato occupato per cacciare Saddam Hussein, che era lo sterminatore dei curdi, degli sciiti, il finanziatore degli attentati palestinesi a Gerusalemme e l'uomo che aveva messo in piedi il reattore nucleare di Osirak, insomma un bel delinquente. Allora, voglio dire, Obama questa contraddizione la assume su di sé, poi deve esercitare la retorica, diciamo, pacifista, ma le due cose sono in contraddizione, questi discorsi che ha fatto in Iraq sono in contraddizione con quella retorica. Come fa, chiedo a Parsi? Fa come si fa nei paesi seri, purtroppo noi siamo abituati a un circuito politico italiano in cui a ogni elezione si dice che chi c'era prima era il peggio del peggio, bisogna disfare quello che è stato fatto. Però nei paesi, diciamo, di più lunga tradizione democratica e quindi anche di aspro conflitto partitico, ma all'interno di un, diciamo, di un campo ben regolato, non è così strano che ogni presidente, nel caso americano, si ritrovi poi a ereditare le scelte di amministrazioni spesso di colore opposto alla sua. Per cui è chiaro che poi, come lei sottolinea, ci sono gli interessi permanenti, per così dire, degli Stati Uniti. Una cosa che abbiamo sottolineato almeno in alcuni appena eletto Obama era, guardate, che di fronte a un possibile fase di declino dell'egemonia degli Stati Uniti, dobbiamo smettere di pensare che il presidente intelligente è quello che lo capisce la seconda. Il presidente intelligente dal punto di vista americano è quello che lotta per evitare che questo si realizzi o per renderlo il più lontano possibile. Allora, io credo che non credo che il soft power o la sua offensiva, diciamo, di immagine e di modi sostituisca gli altri elementi del potere, aggiunge agli elementi del potere quelli più classici, potere politico, potere militare, potere finanziario ed economico, quelli della persuasione, quelli un ho po' capito, diciamo, è la marcia in più, insomma, non è sì, una sostituzione. Per cui penso che lei ha ragione, è difficile, ma va fatto. Va fatto perché sarebbe suicida rinunciare a questa cosa. Lui sì, sentiamo su questo è in vantaggio. Sì, sentiamo su questo anche Padellaro, cioè è un'arma in più questa della persuasione retorica. Sì, la storia, come dice, non si fa con i sì e con i ma, la domanda è questa: Obama avrebbe mai dichiarato guerra all'Iraq? Io ne dubito. È chiaro che quando lui si reca in visita alle truppe americane e con il tributo di sangue che è stato versato dai giovani americani, dalle famiglie americane, lui cosa, non può dire abbiamo sbagliato, vi abbiamo mandato al macello inutilmente, deve giustamente e patriotticamente rivendicare una continuità con chi lo ha preceduto. Io trovo che il rischio di Obama non sia tanto nella contraddizione, che è stato già detto molto bene, è inevitabile tra, come dicevi tu, per suturare fasi diverse della storia contemporanea dell'America, e su quello che può succedere. Una domanda che ci si può porre è questa: come reagiranno le forze fondamentaliste, integraliste, terroriste dell'Islam di fronte a questa offensiva? Staranno a guardare accettando che Obama cominci piano piano a riassorbire, diciamo, l'acqua dentro il quale l'acqua di, appunto fatta di integralismo, di fondamentalismo dentro il quale l'Islam in questi anni ha vissuto, o faranno qualcosa per rimettere in moto la spirale dell'odio, perché questo è un'ipotesi. Sentiamo qualche telefonata. Giancarlo da Torino. Pronto? Oh no. Sì, buongiorno. Senta, no, volevo dire che ho apprezzato molto il viaggio di Obama in Europa, sì. perché vedo Obama un po' come il Gorbachev per l'Unione Sovietica negli anni Ottanta. Cioè allora sono brutte le prospettive dell'America. No, nel senso che comunque un cambiamento della politica americana, nel senso di relazionarsi con il mondo. Prima con Bush e con quelli precedenti abbiamo visto un'America aggressiva e prepotente, soprattutto perché ha sempre appoggiato in modo indiscriminato Israele in tutte le sue scelte. Invece però Obama, io non userei il paragone con Gorbachev, secondo me, porta male. Invece lo vedo un po', nel senso che comunque ha la faccia pulita, come aveva Gorbachev, ma invece quelli prima di Gorbachev sempre arrabbiati, sempre con quelle facce. Sì, per carità, certo, Stalin era meglio di Obama Gorbachev, però, pulita, però insomma l'Unione Sovietica l'ha sciolta Gorbachev. Un po' come un Gorbaciov, nel senso che comunque ha buona volontà di cambiare le cose, chiaramente. Bene. Che da solo non può far tutto, logico, ci vuole la parte anche europea, ci vogliono i sì dei leader europei, ci vogliono delle vedute. Bene. Anche come può c'è un suo concittadino che ha idee un po' diverse dalle sue. Pietro da Torino. Buongiorno. Lo trovo veramente significativo l'intervento di chi mi ha preceduto, quasi un lapsus freudiano. E credo anch'io che Obama piace molto perché sì, ricorda Gorbaciov che appunto ha sciolto l'Unione Sovietica. E la Repubblica, che non è certamente un giornale che si oppone, che ha un giudizio negativo su Obama, in un servizio di questi giorni ha parlato di Carter. E noi sappiamo che cos'è stato Carter, forse il minimo storico della potenza americana. Il fatto che Obama comincia a essere paragonato a Carter, secondo me, la dice lunga. E spiega anche perché agli europei piace. Però il mio intervento, se ho ancora un momento, in realtà voleva essere su un'altra questione. Ho sentito un suo ospite parlare del problema del contrasto con l'Islam, ed è una teoria molto diffusa il fatto che l'anti-americanismo, l'anti-occidentalismo islamico in generale sia di natura reattiva verso l'aggressività occidentale e in particolare relativo alla guerra di Bush in Iraq. Io personalmente anche penso che sia stato un errore questa guerra, però non possiamo invertire la causa con l'effetto. L'11 settembre 2001, credo che tutti, se facciamo mente locale, ricordiamo benissimo le scene di esultanza, di entusiasmo delle masse, delle opinioni pubbliche, come diciamo noi, delle popolazioni arabe e musulmane del mondo, e addirittura i leader invece che cercavano di spegnere queste manifestazioni. Certo, lei dice il conflitto esisteva da prima, insomma, certo, da prima delle elezioni di Bush, da prima dell'11 settembre e anche da prima della guerra in Iraq. Va bene. Giancarlo Musetti, 800 24 00 24, stiamo parlando di Obama, dell'Europa, della situazione, diciamo, mondiale dopo il vertice del G20, dopo il vertice atlantico e la visita di Obama in Turchia e in Iraq. Allora, Angelo Panebianco ha messo in scena una grande provocazione intellettuale. Ha detto: l'Europa in Afghanistan dà una risposta irrisoria a Obama. Non gli dà quello che Obama chiede. Obama ha cercato di spiegare agli europei: guardate che Al-Qaeda è pericolosa per voi, ancora più che per noi oggi, e che la guerra in Afghanistan vi riguarda. Bisogna smantellare la struttura, diciamo, protettiva, di tutela, che in qualche modo può rilanciare Al-Qaeda al confine tra Afghanistan e Pakistan. Però l'Europa, insomma, è tacagna e avara. Poi, anche sul resto, anche sulla Turchia e su tante altre cose, insomma, Obama si è trovato più a suo agio con i cinesi, no? Una specie di bipolarismo cino-americano, che sono poi il vero partner per tutti i discorsi che riguardano la ripresa economica, che non con gli europei. A questo punto, dice, siamo qui in Europa, in questa situazione di... un continente marginale, è il titolo dell'articolo di Panebianco, di progressiva emarginazione, e stiamo pure a fare le elezioni europee facendo finta di essere dei buoni europei con un'istituzione legittimata dal voto popolare, quando poi sappiamo che le elezioni europee saranno la solita nenia di argomenti di politica nazionale, e tutti candidi o non mi candido, chi si candida, chi non si candida, le cose, eccetera, gli assenteismi, insomma una roba un po' meschina. Ecco, non è che si parli dell'Europa, della politica estera, del destino del mondo quando ci sono le elezioni europee in Italia e anche negli altri paesi europei. Allora Panebianco dice: smettiamola con questa elezione popolare, rifacciamo eleggere il Parlamento europeo dai parlamenti nazionali, sarà altrettanto se non più rappresentativo del Parlamento europeo, farà quel suo mestiere di grande fabbrica cartacea, oppure di nobile testimonianza, ma insomma senza il fastidio di avere questo supplementare sondaggio delle politiche nazionali con l'etichetta elezioni europee. Che ne pensa Bosetti? Beh, certo, l'Europa è quello che è, quindi non c'è presidente americano né europeo che riesca a cambiare la mentalità con la bacchetta magica. È chiaro, io penso, tanti pensano che l'Europa dovrebbe fare di più, dovrebbe essere più attiva sulla scena internazionale, dovrebbe essere più attiva sulla scena del Medio Oriente, dovrebbe far sentire la sua voce tonante e lavorare per una soluzione due popoli, due stati in Israele, tra Israele e Palestina, dovrebbe, ma non lo fa. È chiaro, durante la presidenza Bush, con quel che è successo, ha avuto per di più anche un alibi, un presidente che sbagliava, che ha fatto una guerra sbagliata, e quindi adesso ha utilizzato anche questo per fare ancora di meno. Questo è impressionante. Tra l'altro, se guardiamo i sondaggi sulle questioni, i sondaggi sulle opinioni europee, vediamo che gli europei per sé andrebbero spinti, sono contrari a un maggior coinvolgimento in Afghanistan, che invece sarebbe giusto. Quindi non credo che però passare la parola ai governi, che poi a loro volta vengono eletti, darebbe una mano in quella direzione, non credo affatto. Il lavoro non credo, anzi ci sarebbe un arretramento, perché nelle elezioni nazionali gli egoismi sono ancora più forti, e quindi le democrazie, diciamo, hanno questo difetto, che si proteggono dentro i limiti nazionali, difendono il loro benessere con le unghie, con i denti, quindi non è quella la via, una maggiore integrazione che passi anche attraverso le elezioni potrebbe dare di più, ma una delle premesse perché l'Europa faccia di più in Afghanistan e dovunque è che si ristabilisca un legame di fiducia con gli Stati Uniti, perché noi abbiamo un governo la cui maggioranza è stata molto vicina a Bush, ma la rottura tra la Germania e la Francia, per non parlare della Spagna, con il governo americano è stata pesante, quindi ha bisogno di tempo per essere medicata, perché si restauri un qualche comune progetto che si traduca poi in impegni militari onerosi, molto onerosi. Perché ha messo in piazza il dissenso con Sarkozy, con la Merkel e con una parte dell'Europa sulla questione turca Obama? Diplomaticamente perché non ha cercato di glissare? Perché ha su questo, diciamo, voluto segnare una differenza netta, insomma, ecco, credo che sia molto chiaro, questo dà più forza al suo messaggio rivolto alla Turchia. Questo è ossigeno per il governo turco, perché il governo turco era anche sotto la pressione di una opinione vulnerata dall'ultima guerra di Gaza, dall'andamento generale del conflitto. Sentiamo Parsi. Guerra di Gaza ha avuto, ricordiamo che a Davos Erdogan ha avuto quel gravissimo e sbagliato scatto di nervi contro Peres, ma questo era un indizio, quindi lì c'era un recupero. Sì, sentiamo su questo Parsi. Sì, penso anch'io che la motivazione principale fosse quella di preparare, diciamo così, nel viaggio a Istanbul. Poi credo ci fosse anche un segnale per i capi di governo e per l'opinione pubblica europea, cioè ha reso omaggio ai valori comuni che rendono l'alleanza così particolare, ha reso omaggio all'esperimento politico che resta una novità dell'Unione Europea, e però ha anche detto ci sono differenze di valutazione, e in qualche modo ha voluto rilanciare il coraggio europeo, cioè ha sottolineato che l'Europa è nata sanando fratture importantissime, da quella franco-tedesca a quella dell'eredità della cortina di ferro. Se riuscisse a sanare anche questa frattura tra mondo musulmano islamico e diciamo così mondo di tradizione cristiano-giudaica, assolverebbe un enorme compito. E io credo che sia l'inizio proprio di un discorso franco tra amici, ma non che hanno necessariamente lo stesso punto di vista sempre, anche su questioni molto rilevanti dal punto di vista strategico. Stanare un po' l'Europa a fare qualcosa, e questo purtroppo fino adesso, ripeto, non ci è riuscito. Diamo tempo al tempo, perché è giusto riconoscere anche questo, però capisci bene che diversa sarebbe stata la posizione di Sarkozy o della Merkel se fosse venuto questo freno alla Turchia insieme a un serio invio di truppe combattenti in Afghanistan. Sarebbe stato diverso per questi leader poter dire ok, questa è casa nostra, su questo discutiamo noi, però contemporaneamente lavoriamo sulla causa comune. Cristian, facendo questo, ha evidenziato che non pagate, non giocate, che facciamo? Cristian da Pisa ci critica perché parliamo di Obama mentre ci sono 70.000 sfollati in Abruzzo e questo fiume di dolore, di passione. Cristian. Sì, dottore, buongiorno. Io sono d'accordo con lei, ma che dobbiamo fare? Bisogna pure restaurare un minimo di normalità, perché altrimenti non si va avanti, insomma, consumare solo solidarietà. No, con tutto rispetto per lei e per i suoi ospiti, però... No, ma anche noi ci sentiamo a disagio, Certo, no, sicuramente la politica estera è importantissima anche per come influisce su di noi, però... Con la drammaticità della situazione la normalità non mi sembra restaurabile per il momento. Mi sembra bisogna sforzarsi. Non ci si riesce naturalmente, ma bisogna sforzarsi di farlo, nel senso che naturalmente c'è un palinsesto, c'è una programmazione della radio che punta moltissimo sull'informazione diretta su quello che accade in Abruzzo. Noi siamo sempre naturalmente con i microfoni aperti col GR24 per dare eventuali informazioni di ultimissima ora, però insomma c'era sembrato necessario cominciare a, come d'altra parte fanno molti canali televisivi, molte stazioni radio e gli stessi giornali, insomma ci vuole un po' di completezza dell'informazione, bisogna mantenere gli strumenti di informazione diciamo dentro un registro che segnala l'emergenza e la novità, ma al tempo stesso cerca di non perdere il contatto con l'evoluzione delle cose. Comunque la ringrazio per la sincerità con la quale ci ha opposto una obiezione che anche noi sentivamo tutti dentro di noi, insomma. Bene, io saluto Antonio Padellaro e il suo libro Io gioco pulito, che è appena arrivato in libreria, e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, lo stesso con Giancarlo Bosetti, direttore di Risette, e con Vittorio Emanuele Parsi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR24 e poi a Gianluca Nicoletti con Melo 2.0. Ci risentiamo in diretta mercoledì prossimo, avremo delle piccole repliche, una specie di curioso ripasso dell'elefante, questo nei giorni immediatamente precedenti e successivi al triduo pasquale. Arrivederci, a mercoledì prossimo in diretta.